In quel tempo Gesù parlò dicendo: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna 2 volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio, non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del tempio, resta obbligato. Oggi Gesù ripete diverse volte: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, guai a voi. Poveri voi, che pena mi fate! Questo vuole dire il Signore, scribi e farisei ipocriti. Chi sono gli ipocriti? L'ipocrita è una parola greca, ipocrita, e vuol dire un attore, uno che recita una parte, un ruolo. E l'ipocrita è una persona che fa vedere di essere in un modo e invece è in un altro. È una persona doppia, è una persona che si mostra diversamente da quello che è. E noi possiamo essere ipocriti non solo con gli altri, non solo con Dio, ma persino con noi stessi. Anzi, forse questa è l'ipocrisia più marcata, più comune e anche più difficile da guarire. Perché se noi siamo ipocriti con Dio e con gli altri, lo sappiamo perché vogliamo dimostrarci diversi. Di come siamo, perché abbiamo paura di essere giudicati, perché abbiamo paura di non essere accettati, di non essere amati. Ma quando invece siamo doppi nei riguardi di noi stessi, quando ci crediamo di essere quello che non siamo, per paura di vederci veramente nella realtà, e questo è molto, molto peggio, perché se uno non prende consapevolezza di se stesso, nemmeno può cambiare. E in quante situazioni ci troviamo spesso con questa duplicità? Viviamo vite doppie, cioè pensiamo di essere quello che non siamo, ci autoconvinciamo di essere quello che non siamo e spesso critichiamo negli altri proprio quei difetti o quei vizi, quelle mancanze di virtù che noi abbiamo in primo luogo. Quante volte le persone bugiarde dicono: Ah, io non posso sopportare la bugia, è una cosa che proprio non posso sopportare la bugia. E non si rendono conto queste persone che sono le prime ad essere bugiarde. Oppure, quanto mi dà fastidio quando una persona critica gli altri. E spesso magari sono proprio io quella persona. Oppure, ah, io avrò tanti difetti, ma sicuramente non quello della mancanza di pazienza. Io sono molto paziente. Avrò tanti difetti, ma sono molto paziente. E magari proprio la pazienza è la virtù che gli manca. Ecco, e così via. E spesso, soprattutto nelle coppie, nella coppia marito e moglie, l'uno accusa l'altro di quello di cui dovrebbe in primo luogo accusare se stesso. Allora oggi, l'invito di oggi, della parola di oggi, è quello a fare chiarezza dentro di noi, a fare verità dentro di noi. E come possiamo fare la verità dentro di noi? Come possiamo vincere l'ipocrisia? Sicuramente con la preghiera, ma una preghiera attenta, una preghiera vigile, una preghiera più riflessiva, una preghiera meno parolaia, meno fatta di tante tante parole, ma di più riflessione. Possiamo cercare di correggere l'ipocrisia riflettendo sulle nostre azioni. È inutile che noi cerchiamo e pensiamo di essere quello che non siamo. Per fare chiarezza dentro di noi dobbiamo vedere le nostre azioni, come agisco. È inutile che io mi credo paziente. Le mie azioni rivelano la pazienza? Forse sì, forse no. Allora, la conoscenza vera di me passa attraverso la riflessione sul mio vero vissuto, sulle mie azioni, che cosa rivelano le mie azioni di me stessa, che cosa dicono gli altri di me stessa, che cosa dice Dio di me. Allora, facciamoci queste domande, facciamo chiarezza dentro di noi e domandiamo al Signore la grazia di non essere doppie. Diciamo, Signore, tu sei la via, la verità e la vita. Buona giornata!